Smart City, la città intelligente. Un saluto da Maurizio Melis. Freddo glaciale negli USA, piogge torrenziali nel nord Europa, ondate di caldo record in Australia. La cronaca di questa stagione invernale ci racconta di città fragili di fronte agli eventi meteorologici estremi, senza contare la possibilità che tali eventi diventino ancora più frequenti in futuro a causa del riscaldamento globale. Su questo punto i climatologi sono cauti al momento, dato che ci vogliono molti anni di osservazioni anomale per poter parlare di un trend del genere, ma insomma è uno scenario abbastanza realistico. Conseguenze certe invece del cambiamento climatico sono l'innalzamento del livello dei mari, che renderà sempre più difficile la vita per le città costiere, mentre altre città al contrario dovranno affrontare un clima progressivamente sempre più arido. Insomma, le città sono nella tempesta oggi e probabilmente lo saranno ancora di più domani. Allora abbiamo voluto prendere spunto da questi fatti di cronaca per raccontarvi come le città possono attrezzarsi per reagire a tutto questo, imparando per esempio a utilizzare le nuove opportunità offerte dalle tecnologie smart per affrontare l'emergenza quando si verifica, ma soprattutto progettando territori sempre più a prova di eventi climatici estremi e di cambiamento climatico. Partiamo da quest'ultima idea che ha un nome ben preciso per gli addetti ai lavori. Si parla infatti di città resiliente, ovvero una città in grado di adattarsi e di subire danni limitati di fronte a eventi stressanti come quelli di cui abbiamo parlato finora. E continuiamo a parlare con il responsabile dei progetti internazionali del Kyoto Club. Buonasera, Piero Pellizzaro. Buonasera a tutti. Dunque, Pellizzaro, una prima cosa che forse dobbiamo dire è che le città odierne semmai tendono ad amplificare gli effetti, no, di questi fenomeni estremi, piogge e ondate di calore. Purtroppo sì, a causa di una cementificazione selvaggia effettuata negli ultimi anni, l'effetto dell'aumento della temperatura si amplifica, edifici sempre più alti, strade sempre più cementificate con meno spazi verdi, tutti questi effetti di una sempre maggior presenza di cemento ha contribuito ad amplificare. Sì, è proprio che la città con la sua forma geometrica, le sue caratteristiche, diventa un perfetto assorbitore di luce solare, no? Trattiene, esatto, tutto lì, anche la luce che viene magari riflessa da un grattacielo viene poi assorbita dal grattacielo di fronte e la temperatura sale e qua insomma è evidente. E le isole di calore si creano anche soprattutto nell'ambito notturno, quando la differenza tra temperatura del cemento e dei materiali e temperatura esterna si eleva, la differenza, questo rilascia maggiore calore. Sì, tra l'altro peggiorando sono gravi problemi per la salute. Atene fu una città su cui storicamente si condussero questi studi, venne fuori che la temperatura poteva essere più alta addirittura di 10 gradi. Voi immaginate una città che parte da 35, arriva a 45, che postaccio è per vivere. Ecco, poi dicevamo le conseguenze però ci sono anche sulle piogge, no? Anche una pioggia particolarmente intensa diventa un gravissimo poi problema in città. Sì, soprattutto in questo periodo, in questi anni, dove possiamo dire che la quantità di piogge, i millimetri di pioggia che cade è rimasta invariata, però la stessa quantità di pioggia cade in un tempo molto più ristretto, avendo però al tempo stesso ridotto i terreni permeabili delle nostre città. Quando arrivano questi carichi di pioggia improvvisi non siamo più capaci ad assorbire tutta l'acqua. Quindi in definitiva che cosa sono queste città resilienti? Città resilienti sono città che sono capaci di rivedersi, di ritornare, di ricordarsi, di tornare ad avere quelle capacità vitali che avevano prima di questo shock, che in questo caso è la cementificazione eccessiva che c'è stata nelle nostre città. Esatto. Ecco, senta, abbiamo detto delle ondate di calore, abbiamo detto delle piogge che diventano più intense. Quali sono altri, diciamo, pilastri del dibattito intorno a queste cosiddette città resilienti? Anche perché poi le città, lo sappiamo, in tutto il mondo hanno problemi completamente diversi. Un altro tema importante è quello dei trasporti, perché i trasporti, qualora in caso di un evento estremo le vie di trasporto venissero interrotte, ci sarebbero a creare diversi problemi, in primis per l'emergenza, la gestione dell'emergenza, quando non saremo capaci di far arrivare i mezzi di soccorso, tantomeno i bisogni di prima necessità, e nell'arco di qualche giorno potrebbero esserci anche difficoltà nell'approvvigionamento di cibo stesso o di beni di prima necessità. Ecco, a me viene in mente una cosa molto più banale: se tutto il trasporto è basato sulla gomma, come a Roma, bastano due fiocchi di neve e tutta la città si ferma, no? Se invece uno ha un po' di metropolitane e per esempio di funivie urbane che stanno tornando di moda, quel problema lì ce l'avrà meno, perché almeno alcuni mezzi andranno avanti a funzionare anche sotto la neve, no? Questo, esattamente, per dire, è un po' anche questo il concetto di resilienza. Esattamente, saper essere capaci di trovare altre soluzioni, ma anche un tram stesso con i binari riscaldati, come si fanno in giro per tutti i paesi nordici, basta pensare a Friburgo, basta pensare alla Svezia, è una soluzione alternativa. E poi ci sarebbe anche il tema del cibo, ma dobbiamo fermarci qui. Per intanto grazie Pellizzaro. Grazie a voi. Domani ancora Città nella tempesta, parleremo del ruolo dei social network nel corso delle emergenze. Buona serata.